A bordo campo di Dario Ricci. Bentrovati a bordo campo. Oggi parliamo di un tema e di uno sport veramente particolare, anche del loro intreccio, perché come sentirete si è creata una sinergia veramente particolare sui campi del campionato di pallamano femminile, in particolare a Salerno, dove l'ITC Ceramiche Salerno, squadra di vertice del nostro movimento della pallamano femminile, ha uno sponsor davvero singolare. Parliamo del 1522, il numero anti-stalking, il numero verde antiviolenza per le donne, attivo in varie lingue tutti i giorni dell'anno e che da quest'anno appunto è cucito sulle maglie dell'ITC Ceramiche di Salerno. Sentiamo questa scheda per capire di cosa si tratta, che cos'è lo stalking. Chiunque minacci o compia atti persecutori nei confronti di qualcuno rischia il carcere fino a 4 anni. Se poi a molestare il coniuge, anche separato o divorziato, il convivente o il fidanzato, e se la molestia è rivolta a una donna incinta, la detenzione può durare fino a 6 anni. Sono le principali novità del testo approvato il 29 gennaio 2009 dalla Camera, che introduce il reato di stalking nel nostro ordinamento con un nuovo articolo, il 612 bis del Codice Penale. Il disegno di legge sugli atti persecutori stabilisce anche che nei confronti del molestatore si possa disporre l'allontanamento fino ad 1 anno dalla casa o dal luogo di lavoro della vittima o anche, ad esempio, dalla scuola dei figli. La pena aumenta se a molestare è il coniuge, anche se separato o divorziato, o il convivente o il fidanzato, anche ex. Pena aumentata anche se la vittima è un minore o un diversamente abile o una donna incinta e se gli atti persecutori sono stati commessi usando armi. Il testo prevede che il giudice possa intimare all'imputato di non avvicinarsi ai luoghi normalmente frequentati dalla vittima. Per le vittime di stalking è istituito un numero verde nazionale per fornire una prima assistenza psicologica e giuridica. Questo quindi lo sponsor davvero singolare dell'ITC Ceramiche Salerno. Nostro ospite, il presidente della società salernitana, Mario Pisapia. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, presidente, come nasce questa iniziativa? Ma diciamo che la nostra società è una società particolarmente, diciamo, al femminile, tra virgolette, nel senso che abbiamo uno staff dirigente, diciamo, pieno di donne. Di fatto disputiamo un campionato di vertice del campionato di pallamano, che è appunto femminile, in A1. E ovviamente siamo una società, come insomma credo un po' tutte le società sportive, soprattutto quelle, diciamo, a scopo dilettantistico, visto che il nostro è considerato ancora uno sport di tipo dilettantistico, attenti al territorio, attenti al sociale, quindi a cercare di accompagnare insieme alle attività diciamo strettamente agonistiche, insomma, anche delle campagne sociali. Ci è sembrata una bellissima iniziativa quella del 1522, che il ministro Carfagna, insomma, e tutto il ministero ultimamente, diciamo recentemente, sta promuovendo abbastanza bene, con abbastanza grinta, diciamo, un po' su tutti i media. Ci sembrava perfetto, diciamo, l'idea di sposare questo connubio per noi, insomma, che di fatto viviamo in un mondo al femminile. Fai rete, difenditi in attacco, questo è lo slogan che le ragazze della pallamano di Salerno hanno lanciato con l'inizio del nuovo campionato. Dicevamo dell'iniziativa ministeriale che di fatto, come sentivamo nella scheda, ha permesso di introdurre nel codice penale il reato di stalking. E allora ci ha raggiunto telefonicamente Isabella Rauti, capo dipartimento per le pari opportunità. Benvenuta a bordo campo, dottoressa Rauti. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Beh, direi, dottoressa, che l'introduzione di questo reato nel nostro codice penale è un grande risultato. Finora, quali sono state le conseguenze pratiche? Quali sono i risultati che tramite il 1522 siete riusciti a monitorare come ministero? In realtà da quando la legge è stata varata, i casi e i dati, adesso li fornirò, ci dimostrano quanto innanzitutto la legge fosse necessaria e quanto purtroppo si tratta di un sommerso che soltanto adesso sta emergendo. Se noi ci rendiamo conto, e ci comunicano i dati naturalmente i carabinieri, che dopo il varo della legge anti-stalking, in poco tempo, perché si tratta di pochi mesi, sono state più di 300 denunce e oltre 132 arresti. Quindi evidentemente e purtroppo di questa legge ce n'era bisogno. E devo anche sottolineare come, in assenza di una legge, purtroppo tante condotte di stalking non sono state correttamente identificate e non c'era neanche la possibilità, proprio per la loro non definizione, di rappresentarle e quindi di denunciare, e i casi di cronaca ci hanno restituito troppo spesso quanto una non considerazione di atti reiterati, poi sfociati in atti estremi, sia stata sottovalutata. Certo, quindi strumento prezioso quello di questa legge, e basti un altro dato, no, dottoressa, da segnalare per capire quanto fosse necessaria questa legge. Il 1522 negli ultimi due anni ha fatto registrare un incremento del 160% delle telefonate, quindi ci è andata incontro a un'esigenza particolarmente sentita. Dicevamo, ITC Ceramiche Salerno, squadra femminile che corre cerca lo scudetto nella pallamano. Ebbene, allora ci ha raggiunto ancora telefonicamente Antonella Coppola, giocatrice della squadra e anche della nazionale azzurra. Ben trovata, Antonella. Beh, direi insomma una bella responsabilità quella di inseguire lo scudetto con questo numero sulle maglie, no? Beh, sì, sicuramente una grossa responsabilità, ma anche un onore poter portare in giro per l'Italia e anche in Europa, visto che noi siamo impegnati anche nella Coppa Europea, che disputeremo a fine mese, questo numero 1522, che rappresenta proprio l'iniziativa del progetto Arianna. Insomma, voi siete un po' le testimonial dell'intero progetto. Parlando della tua esperienza sul campo, giocatrici sempre applaudite, ammirate, hai mai vissuto un'esperienza di un tifoso, di una situazione di stalking, o che in qualche modo ti è pesata, insomma, sul campo sotto questo profilo? No, sotto questo profilo no, sicuramente ci sono molti tifosi. I tifosi, come ben sappiamo, sono abbastanza calorosi, irrequieti in campo durante la partita, però sicuramente nei limiti del rispetto delle giocatrici sia di casa che avversarie, sicuramente tifano, però rispettando le ragazze. E le vostre avversarie finora sul campo come vi hanno accolto alla luce di questo sponsor così particolare? Diciamo che ha riscosso notevole interesse un po' in tutta Italia e in tutte le squadre che disputano il campionato di A1. Dottoressa Rauti, qua c'è il rischio di dover sponsorizzare tutto il campionato di pallamano, eh? Ah, ma guardi, io sarei ben contenta, perché io penso che ogni sinergia tra le istituzioni e il mondo dello sport sia comunque una cosa positiva. Se posso fare una piccola aggiunta, sempre invece sul tema centrale, rispetto a questo numero al quale naturalmente noi teniamo molto, questo numero di pubblica utilità, il 1522, che le atlete appunto adesso portano sulla maglietta, perché il numero è nato nel 2006, quindi ha 3 anni di esercizio, e all'origine era dedicato esclusivamente alle donne e all'antiviolenza, cioè tutte le varie forme di violenza, sia psicologica che fisica. Adesso, dopo il varo della legge sullo anti-stalking, questo numero è stato esteso anche evidentemente alle telefonate, alle richieste di aiuto da parte di chi presume, si sente di essere vittima di stalking. Quindi abbiamo, come posso dire, esteso il servizio, potenziato il servizio e attribuito al servizio un'ulteriore, come posso dire, valenza rispetto appunto alla fattispecie di reato. E il numero, come ha detto lei, ha registrato quasi un'impennata, direi, di chiamate. Questo è effetto, a nostro avviso, di una dinamica duplice, cioè da un lato c'è una situazione di criticità e di violenza crescente, dall'altro l'aumento delle chiamate nasce anche dal fatto che il ministro Carfagna ha fatto un enorme sforzo anche di comunicazione di questo nostro numero di pubblica utilità, che, come ricordava lei, è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e tra l'altro naturalmente offre un servizio in più lingue. Ed è importante dire a chi ci ascolta che le telefonate che gli operatori raccolgono, oltre che dare un come posso dire, un primo sostegno immediato da parte di chi risponde alla vittima. Spesso naturalmente arrivano anche telefonate drammatiche, poi è compito degli operatori indirizzare o verso i centri antiviolenza del territorio di pertinenza o, a seconda della gravità e della tipologia, diciamo, della richiesta, anche orientare quindi verso i servizi sociosanitari, sia pubblici che privati, e verso evidentemente le forze dell'ordine attraverso una sorta di, come posso dire, di legame preferenziale che il servizio ha con le forze dell'ordine. Presidente Pisapia, per chiudere, avete qualche altra iniziativa in cantiere per sviluppare questa partnership? Ma ripeto, al di là della maggiore, insomma, sensibilizzazione da parte, insomma, delle ragazze, che oggi sono orgogliose di portare questo numero sul petto e quindi stimolate al far bene, perché più facciamo bene noi e automaticamente diamo maggior risalto al numero. Quello che dissi anche, insomma, quando facemmo l'accordo per portare sulla maglia il numero, ovviamente questo è l'inizio. Noi ovviamente siamo a disposizione per tutto l'anno, per tutto il proseguo della stagione, per tutta una serie di iniziative, cioè, che avranno la finalità di promuovere appunto il 1522, sia durante le partite casalinghe, all'esterno. Cioè, il fatto di avere di base il numero è secondo me un inizio di quello che può essere una campagna di diffusione, anche perché sia per noi che facciamo sport, ma in generale l'unico modo per combattere oggettivamente questi fenomeni è fare tanta, tanta, tanta, tanta informazione. Noi ci metteremo il massimo dell'impegno, visto che noi partiamo da un'attività di base, quindi da bambini fino a, insomma, a coinvolgere gli adulti. Sappiamo che nei momenti ludici le persone magari sono anche un po' più attente ad ascoltare certi messaggi, quindi noi faremo il possibile per dare quanta più informazione su queste iniziative. Un'ultima battuta con Antonella Coppola, che so che deve andare all'allenamento e se lo salta c'è il rischio che il presidente Pisapia magari la multi pure, ma stiamo scherzando. Antonella, pensi tu, che vesti anche la maglia azzurra, pensi che questo esperimento, questa sponsorizzazione potrebbe essere anche estesa alla nazionale? Ma sicuramente lavoreremo per portare questo progetto anche a livello nazionale, sarebbe sicuramente una bellissima iniziativa prolungare questa nostra esperienza un po' anche a livello della nazionale italiana. Bene, allora staremo a vedere. Grazie intanto ad Antonella Coppola, giocatrice dell'ITC Ceramiche Salerno, al presidente della società Mario Pisapia e Isabella Rauti, capo dipartimento per le pari opportunità. E mi raccomando, in caso di emergenza non abbiate alcun dubbio, il numero di telefono è il 1522. A bordo campo. Ben ritrovati oggi a bordo campo. Parliamo di grandi carriere, di grandi campioni sportivi, ma soprattutto di quello che viene dopo, perché negli occhi spesso ci rimangono medaglie, record, trionfi. Invece c'è tutta una vita dopo una medaglia, mi verrebbe da dire. Ne parliamo insieme a Claudia Giordani, medaglia d'argento nello slalom speciale alle Olimpiadi di Innsbruck nel 1976, 3 vittorie anche in Coppa del Mondo, insomma, una bandiera del nostro sci alpino. Benvenuta Claudia a bordo campo. Grazie, saluto a tutti. E con Marco Marchei, uno dei più grandi maratoneti italiani, protagonista di 2 Olimpiadi a Mosca nell'80 e Los Angeles 84, direttore ora di Runner Wars. Benvenuto Marco. Grazie. Allora, perché parliamo di carriera di grandi campioni e del dopo carriera? Perché è stato presentato in questi giorni a Milano proprio Sport Carriere Italia, una società nata dall'unione delle esperienze di 3 altre società, Studio Ghiretti e Associati, che è uno studio di consulenza globale in ambito sportivo, sportcarriere.com, nata in Francia nel 2000, e Monitor Research, società di Executive Search e Management Consulting. Insomma, una struttura che cerca di definire in maniera più puntuale, con degli step precisi, quello che può essere il passaggio sempre critico tra la fine della carriera di un grande campione o di un atleta di alto livello e quello che è invece il dopo. Beh, partiamo però proprio dagli ospiti che sono qui ai nostri microfoni nel nostro studio. Claudia Giordani, momento certo non facile da gestire, tu come hai fatto? Sì, detto bene tu, momento difficile. Io premetto che l'ho fatto addirittura a 25 anni, in un'età sicuramente ancora molto giovane. Ai tempi le carriere sportive erano molto più brevi rispetto a quelle di oggi e anzi c'era in tutto l'ambiente una facilità a ricambiare gli atleti e così fu anche per me. Quindi il passaggio non fu difficile fortunatamente, però è stato sicuramente un passaggio molto delicato. Ecco Marco, anche tu come Claudia oggi impegnati nel mondo della comunicazione, ma ci raccontavi fuori onda che proprio il tuo passaggio da atleta attivo al momento di inventarsi invece tutt'altra carriera avvenne nel momento in cui le maratone cominciavano anche a essere remunerative, no? Per atleti di vertice come te. Assolutamente, io ero reduce dall'Olimpiade di Los Angeles, ma soprattutto da un secondo posto alla maratona di Boston che mi aveva di fatto fatto portare a casa un trofeo, semplicemente un trofeo. Anzi, meno male che ero arrivato secondo, perché c'era anche un conto dell'albergo da pagare che poi in qualche maniera mi fu abbonato. Solo qualche anno dopo, cioè proprio negli anni in cui io poi sono stato costretto a lasciare, vincere o comunque salire sul podio di una grande maratona voleva dire vincere, guadagnare molti soldi, per intenderci all'epoca si parlava di $25,000, insomma, che anche oggi, per quanto il dollaro non sia più come forte come una volta, insomma erano belle cifre, per cui avrei voluto volentieri procedere, come dire, togliendomi la soddisfazione di gareggiare nelle maratone più titolate al mondo. E invece dovetti scegliere, come dire, di cominciare un lavoro che comunque fortunatamente si presentò, come dire, in una veste inattesa. Mi resi conto in quel momento che la mia esperienza lavorativa, perché io per mantenermi insegnavo educazione fisica e poi andavo a correre, facevo 40 km al giorno, l'esperienza fatta al liceo classico, l'ISEF, io avevo scelto di lasciare scienze politiche per l'Istituto Superiore di Educazione Fisica, quelle scelte che teoricamente, quest'ultima in particolare, che poteva essere sembrata impopolare quantomeno ai miei genitori, invece si rivelò una sorta di jolly, perché io mi sono trovato a dirigere dall'inizio una rivista di corsa, in un momento in cui non esistevano in Italia, ma le mie competenze mi permisero appunto di fare questo. Diverso è anche l'approccio che al dopo carriera hanno gli atleti a seconda della carriera stessa che hanno maturato. Ci sono i campioni, ci sono i gregari, ci sono atleti di medio livello. L'approccio è appunto diverso. Abbiamo chiesto un profilo in questo senso a Daniele Popolizio, allenatore mentale, una figura che sta emergendo nello sport contemporaneo dei principali atleti italiani, a partire dalla divina Federica Pellegrini. Sentiamo cosa ci ha detto proprio il professor Popolizio. Per l'atleta medio è facile, perché in fondo, pur avendo avuto una vita molto stimolante, comunque essendo comunque un professionista, è un po' come uno che ha finito la sua vita in un'azienda e passa a un'altra azienda. Per il campione è diverso, perché è come un grande imprenditore che ha costruito una multinazionale con cui si è identificato e adesso la deve lasciare. Sono due realtà completamente diverse. L'atleta medio molte volte, già da 2-3 stagioni prima, anche 4-5 a volte, comincia a puntare la meta del post carriera, perché sa che la sua carriera rimane di medio livello, non lo soddisferà come aveva pensato magari nei primi anni da giovane, quando era magari un talento, e allora ha già cominciato per tempo a pensare a un impiego da dirigente, a investire per aprirsi una struttura nell'ambito sportivo, un reimpiego sempre nel settore sport oppure in altro settore. Lo matura prima, perché lo stabilisce non tanto emotivamente, ma proprio come un piano strategico di lavoro. Mentre l'atleta, il campione, ha un processo tutto emotivo, perché fondamentalmente vincere appaga molto e rinsalda molto l'attività agonistica, perché è il vero rinforzo che hai, cioè il successo, i guadagni, la notorietà e così via, e alimenta la motivazione. Allora, quando tu te ne devi andare, soprattutto da vincente, è molto complicato, perché devi andare via da un settore che ti ha visto protagonista, che tu sei stato numero uno e tu ti sei identificato con quel tuo essere numero uno, quindi cambiare settore significa ripartire da zero, e allora o hanno saputo gestirsi molto bene anche finanziariamente, oppure molte volte, se ci fate caso, rimangono comunque in situazioni da palcoscenico, si riciclano nella moda, nel cinema, cercano comunque altre attività, perché poi lì diventa fondamentale il cercare di rimanere visibili e il non perdere quell'etichetta di numeri uno. E allora questo è il parere del professor Popolizio, che ci aiuta un po' a capire quali sono le difficoltà diverse che vanno ad affrontare i grandi campioni o gli atleti a seconda dei risultati raggiunti nella loro carriera. Chiedo a Claudio Giordani, ti ritrovi un po' in queste descrizioni e a partire da quella che è la tua esperienza, quali sono i consigli che si possono dare? Prima di tutto, se devo pensare alla mia esperienza, allora cinema e televisione e quant'altro non esistevano, quindi ha detto bene il professore, forse per quello che è oggi, ma sicuramente un tempo non era così. Anche il più grande campione terminava la sua carriera e poi si doveva comunque rimboccare le maniche, non solo per quanto riguarda i guadagni, come diceva anche Marco, ma anche proprio per tutte le opportunità che allora non c'erano. E quindi quello che è successo a me è semplicemente stato quello di vedere, rimboccarsi le maniche, vedere che cosa dall'esperienza che avevo avuto potevo costruire ancora, e ho scelto, nonostante avessi in un primo tempo studiato e avrei voluto anche mettere a frutto quelli che erano i miei studi, ho scelto di mettere a disposizione la mia esperienza specifica nello sport, sia per quello che riguardava il giornalismo da una parte e poi per quello che riguarda ancora oggi la mia attività, che è quella di supportare aziende, eventi e quant'altro nel mondo dello sport, per quello che riguarda la comunicazione e il marketing. Consigli ce ne sarebbero tanti, e forse ad ognuno andrebbero fatti determinati consigli. Meno male che ci sono strutture che oggi possono supportare gli atleti. Però forse il fondamentale è quello di rimanere attaccati alla realtà, cioè cercare, nonostante o comunque siano i risultati, di essere radicati in quella che è la realtà di tutti i giorni, cosa che non è facile. Non era facile allora, forse non è facile oggi, anche se oggi ci sono tante opportunità in più. Insomma, difficile rimanere con i piedi per terra. Abbiamo ancora un minuto e allora chiudiamo con Marco Marchei. So che tu sei impegnato su questo tema anche perché papà di un atleta di vertice dello sport italiano, no? Valentina, che è una delle pattinatrici di vertice del nostro sport, con il sogno olimpico nel mirino. Quali sono i suggerimenti che le stai dando per pensare all'oggi ma anche al domani, quando appenderai i pattini al chiodo? Ma decisamente resta ripercorrendo un po' la strada che ho già percorso io. Non potevamo fare i voli pindarici. Lei adesso vive negli Stati Uniti e questo le dà sicuramente, le apre orizzonti diversi, le dà molte più opportunità. Non concordo fino in fondo col professore su particolari aspetti. Certe realtà vanno vissute poi in qualche maniera, no? Appunto nel contesto in cui si vive. Lo sport italiano è uno sport un po' particolare, intanto dominato dai gruppi sportivi militari, dove molti atleti, molti comprimari, molti atleti di medio livello spesso non hanno la volontà o il desiderio di impegnarsi, perché in qualche maniera sanno che probabilmente rimarranno nel corpo in cui si sono arruolati, e molti effettivamente si siedono un po' sugli allori. Il campionissimo è un altro discorso, però io i campionissimi, a parte i giocatori del calcio e di pochissimi altri sport che possono permettersi di non sapere che cosa fare o di come reinserirsi, sono a mio parere veramente pochi. E quindi insomma il lavoro, l'impegno, la fatica continuano anche dopo, quando già si hanno le medaglie al collo, già i record del palmarès riempito dalle vittorie, ma insomma a quel punto inizia un'altra pagina, e direi che nel vostro caso, ma in quello anche di molti altri, anche questa pagina è ricca di successi. Prego Marco. Guarda, veramente in 10 secondi mi è piaciuto molto il commento che di questa nuova esperienza ha fatto Sara Simeoni. Sara ha detto: meno male, ci fossero state situazioni come queste, proposte come queste ai nostri tempi. Non a caso i francesi in qualche maniera hanno acceso la fiammella, perché in Francia già queste sono situazioni che già vigono, che già esistono. I francesi sono molto, i campioni, gli sportivi francesi sono un po' più tutelati. Noi arriviamo sempre un po' in ritardo, però meno male che qualcosa è arrivato anche in Italia. L'importante arrivare prima o poi. Allora grazie a Marco Marchei e a Claudia Giordani per essere stati oggi con noi a Bordo Campo. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Valeria Bernardi in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci sul nostro sito www.radio24.it e scriverci alla mail abordocampo@radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.